sait que c'est la femme. Non. Bef tout ma whisky et la dorme, j'en d'un bras. Maman. Mais c'est Louisa, elle sait que c'est la femme. Hey. Mais c'est amphibie ogni volta che va balà. La gana certa età, no. Mezzo gli anfibi ogni volta che va bala. Mama. La mezza Luisa, ormai è grassa in shape. Oh. Ormai truola perché la me mai ranca me. La gara certa età, no! Vale sempre in cala, seguito da mamma mia. Mamma! La mezza Luisa, ormai le grassa in scena. Oh. Forma truola perché non mi mai ranca me.